GR24, il sole 24 ore. Napolitano celebra Roma capitale, nessuna ombra sull'unità d'Italia, dice. La banca centrale libica fa sapere di essere estremamente soddisfatta per l'investimento in Unicredit. Lotta alla fame nel mondo, a New York l'incontro fra i paesi ricchi che al momento chiacchierano molto e pagano poco. Padre e figlia di 3 anni trovati morti nel Bresciano, forse si è trattato di un omicidio-suicidio. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le celebrazioni a Roma per la breccia di Porta Pia e Roma Capitale. Ci colleghiamo dunque in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno dal Campidoglio. Un 20 settembre all'ombra della Lega il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si reca prima a Porta Pia per omaggiare il monumento ai bersaglieri che 140 anni fa liberarono Roma dal Papa Re e la consacrarono capitale d'Italia. Nessuna ombra sull'unità d'Italia, precisa subito il Capo dello Stato, che si concentra sul ruolo di Roma capitale nel successivo intervento in Campidoglio. Ma sentiamo Napolitano. Il mio doveroso impegno ed assillo che non vengano ombre da nessuna parte sul patrimonio vitale e indivisibile dell'unità nazionale di cui è parte integrante il ruolo di Roma Capitale. Mortificare o disperdere le strutture portanti dello Stato nazionale sarebbe semplicemente fuorviante. Nella seduta straordinaria a Capitolina ovviamente è intervenuto anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che contesta l'icona di Roma ladrona. Sentiamo. Non esiste affatto la Roma ladrona che alcuni si ostinano a stigmatizzare. Nel complesso, tra IRPEF, IRES e IVA, la nostra città offre un gettito fiscale di circa 35 miliardi di euro, a fronte di trasferimenti statali di poco superiori a 1 miliardo e 600 milioni di euro. E oggi per la prima volta a Porta Pia anche un rappresentante della Chiesa, il cardinale Tarcisio Bertone, per sottolineare la concordia ritrovata tra Stato e Chiesa, ma la sua presenza ha comunque suscitato fischi e contestazioni. Per Napolitano invece la presenza di Bertone è stato un segno di rispetto. E per il momento qui dal Campidoglio è tutto, voi studio. Grazie, grazie ad Elisabetta Fiorito. Di questo argomento torneremo a parlare anche in Italia in Controluce, non dalle 13.30. E siamo alla pagina economica, a cominciare da Unicredit, la banca centrale libica estremamente soddisfatta per l'investimento in Unicredit. In un comunicato si precisa che l'operazione è di lungo periodo. Non c'è pace in Unicredit, scossa dall'avanzata dei soci libici nel capitale. Gli ultimi acquisti della LIA, il fondo sovrano del paese nordafricano, hanno portato al 7,5% circa la quota della banca italiana complessivamente in mani libiche e innescato la fibrillazione ai vertici dell'istituto. Secondo numerose indiscrezioni, quella che si apre oggi sarà quindi una settimana calda, scandita da un nuovo braccio di ferro tra l'amministratore delegato Alessandro Profumo e i principali soci italiani di Unicredit, che spingono al presidente Dieter Rampl porterà una prima valutazione dell'impatto della vicenda Libia sulla governance di Unicredit, ma l'appuntamento fornirà anche l'occasione per un confronto diretto tra Profumo e rappresentanti dei grandi soci italiani. Sul caso Unicredit in queste ore si registra anche l'intervento del sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che ai microfoni di Radio 24 ha spiegato la propria posizione nella vicenda che agita la banca partecipata dalla fondazione CRT. Non mi dà fastidio la presenza dei libici, ha detto Chiamparino, a condizione che questo non metta in discussione il ruolo di Unicredit. Paolo Pavonetto, da Radio Co, per Radio 24, il sole 24 ore. A Padova, conferenza stampa di presentazione del roadshow Piccole e Medie Imprese all'estero, dal Nord-Est ai mercati globali, organizzato da Banca Antonveneta e Gruppo Sole 24 Ore. Un roadshow nelle Camere di Commercio del Nord-Est per insegnare alle piccole e medie imprese a proporsi sui mercati esteri. L'idea vede impegnati in prima linea Camera di Commercio di Padova, Gruppo 24 Ore e Banca Antonveneta, e vuole essere un'iniziativa concreta capace di dare risposte agli imprenditori proprio in questa parte d'Italia dove è nato il mito del piccolo e bello. Il roadshow parte mercoledì da Padova e toccherà entro il 23 novembre altre 6 città del Triveneto con interventi di imprenditori che già sono presenti sul palcoscenico globale. Il presidente di Padova Promex, Mario Cortella. In assoluto il consiglio che aggregandosi riusciamo a superare la crisi. Quindi questo è il grande messaggio che vogliamo dare. Ci presentiamo al mercato, ci presentiamo alle nostre 96.000 imprese per dire: è finita l'epoca del piccolo e bello. Oggi bisogna mettersi insieme in un contesto dove tutti abbiano il ruolo di grande specializzazione. E quindi avere lanciato questo slogan ha fatto sì che anche il sistema bancario entrasse in sintonia con noi. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova. Sciopero e assemblea in tutti gli stabilimenti Fincantieri questa mattina per chiedere chiarezza sulle voci di tagli e chiusure. La prima risposta organizzata dai sindacati dopo le indiscrezioni su un piano dell'azienda che porterebbe al taglio di 2.500 posti di lavoro. Sono a rischio chiusure i cantieri di Riva Trigoso a Genova e Castellammare di Stabia, dove tre operai sono saliti su una gru all'interno dello stabilimento. Tagli anche per Sestri Ponente e Palermo. Sentiamo il sindaco di Genova Marta Vincenzi al microfono di Valeria De Rosa. Su Fincantieri come sindaco sono disponibile a fare qualsiasi cosa, perché considero la permanenza di questo stabilimento nella nostra città assolutamente indispensabile. Noi non possiamo esistere senza questa dimensione nazionale delle riparazioni navali di Fincantieri. Quindi io sono disponibile a qualsiasi cosa, sono indignata per come il governo da mesi non dà risposte all'accordo di programma che noi, il comune in primis, ha definito già da tempo in tutte le sue parti per consentire allo stabilimento di Sestri Ponente di poter essere ribaltato a mare come condizione della sua competitività. Manca la firma del governo, manca un ministro delle attività produttive. Sono anche molto dispiaciuta del fatto che il management di Fincantieri non abbia sentito il bisogno, prima di lanciare sui giornali ipotesi di questo tipo, di fare un incontro o almeno prepararla politicamente. Federmeccanica presenta i risultati della 115ª indagine congiunturale trimestrale sull'industria metalmeccanica italiana. Andrea Viali. Sì, Piera, secondo Federmeccanica il settore sta attraversando un periodo positivo ma comunque di grande incertezza. Nel secondo trimestre di quest'anno l'industria metalmeccanica ha registrato un progresso del 3,1% rispetto al trimestre precedente e del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2009, una crescita superiore alla media europea legata soprattutto al buon andamento dell'export e agli incentivi della Tremonti Ter, che però sono terminati a fine giugno. C'è da dire però anche che i volumi di produzione del settore restano ancora molto più bassi di quelli che erano prima della crisi, sono ancora sotto del 28%, e anche per questo motivo segnali negativi arrivano dall'occupazione, calata del 3,2% nei primi sei mesi dell'anno, mentre è in aumento la richiesta di cassa integrazione. Un'azienda su quattro infine ritiene che nei prossimi mesi sarà costretta a ridurre il numero dei suoi collaboratori. Per ora è tutto da Federmeccanica. Grazie ad Andrea Viali. A luglio l'export italiano ha registrato un calo dello 0,6% su base mensile, un aumento del 12,2% su base annua. Questi sono dati Istat. Le importazioni sono scese dell'1,6% su giugno, cresciute del 21% su luglio 2009. A livello tendenziale si conferma una sostenuta crescita sia per l'export che per l'import. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Nel primo semestre del 2010 abbiamo avuto un incremento di fatturato rispetto allo stesso semestre del 2009 del 21% circa. Dobbiamo però dire che il fatturato complessivo del 2009 rispetto al 2008 era caduto del 32%. Così elenca i dati puntuali della risalita di Prima Electronics il suo amministratore delegato Domenico Peiretti. Fondata nel 1978, Prima Electronics ha sede principale a Torino e progetta, produce e commercializza elettronica industriale dedicata. Queste le tre principali strategie. Clienti fidelizzati, per fortuna non perdiamo clienti e quindi questi, avendo ripreso a vendere di più, hanno comprato di più anche da noi. Il secondo punto è avere diversificato un po' i mercati e il terzo avere investito continuamente in ricerca e sviluppo. Noi siamo una società con 200 dipendenti e di questi 40 sono in ricerca e sviluppo, per avere una leadership tecnologica. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stamattina le parole di Giovanardi sulle coppie gay. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Frasi destinate a far discutere quelle del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dove le adozioni da parte di coppie gay sono consentite, come negli Stati Uniti ma anche in Brasile, dice Giovanardi, è esplosa la compravendita di bambini e bambine. È una cosa che almeno con questo governo non consentiremo mai e che voglio qui denunciare, dice l'esponente dell'esecutivo. In un'intervista a Klaus Condicio, Giovanardi poi osserva che imporre a un bambino adottato due genitori dello stesso sesso significa fare loro violenza psicologica. Il fatto che ci siano alcune famiglie eterosessuali in cui ci sono stati episodi di violenza o di cattiva educazione, dice ancora Giovanardi, non vuol dire che la famiglia normale sia fonte di maltrattamenti, come afferma qualcuno. Un bambino, prosegue il sottosegretario, ha il diritto di crescere in un contesto dove una figura paterna e materna sono complementari e garantiscono al piccolo una crescita equilibrata. Togliere questo diritto al bambino, dice ancora Giovanardi, e fargli violenza, si crea un diverso dagli altri, lo si candida all'infelicità. E da Roma è tutto. Presidente, siamo con te. Avete sicuramente riconosciuto, è l'inno Meno male che Silvio c'è su Berlusconi. L'autore Andrea Vantini ha querelato l'attrice e regista Sabina Guzzanti per l'uso improprio che ne ha fatto nel suo film Dracula sul terremoto abruzzese, quando alcuni abitanti cantano il brano in mezzo alle macerie. La querela più bella della mia vita, ha risposto la Guzzanti, ma sentiamo Andrea Vantini al microfono di Paolo Panceri. Io ho scritto un brano dedicato al presidente Berlusconi, che è diventato nel 2008 l'inno ufficiale del Popolo della Libertà, ed è stato usato nel film in un contesto che è assolutamente contrario a quella che era l'intenzione di colui che l'ha scritto, cioè io. Lo sappiamo benissimo di che film stiamo parlando, e per cui sappiamo benissimo perché l'ha usato e dove l'ha usato. Per cui io assolutamente ho ritenuto opportuno andare da un avvocato e citarla per danni. Io ho scritto una cosa perché stimo profondamente il presidente lo sa, e lei usa questa, un pezzettino di questo brano con lo scopo esattamente opposto. Io solitamente, quando faccio qualsiasi cosa che riguardi l'inno, per una questione di cortesia, chiamo sempre il presidente. Il presidente è stato ben contento di quello che volevo fare e questo fatto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato di Napolitano, che ha celebrato Roma capitale. Nessuna ombra sull'unità d'Italia, dice il cardinal Bertone a Porta Pia. Roma capitale è una verità indiscussa. E poi il caso Unicredit. La banca centrale libica fa sapere di essere estremamente soddisfatta per l'investimento in Unicredit. Ed ora riprendiamo invece dalla cronaca, che ci porta nel Bresciano per una notizia dai contorni ancora non chiari. Alessandra Tedesco. Eh sì, questa mattina nelle campagne di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, sono stati trovati i cadaveri di un uomo e di una bambina di circa 3 anni. Accanto ai 2 cadaveri c'era anche la carcassa di un cane. Secondo i carabinieri di Desenzano, che si stanno occupando del caso, si tratterebbe di un caso appunto di omicidio-suicidio. L'uomo di 43 anni avrebbe sparato con il fucile da caccia alla figlia, al cane, e poi si sarebbe appunto ucciso. Ieri sembra che la compagna dell'uomo avesse dato l'allarme, perché appunto l'uomo non aveva riportato a casa la bambina. Le notizie, come potete immaginare, sono ancora frammentarie. Si avranno ulteriori particolari nelle prossime ore. Per ora è tutto. Restiamo nel Bresciano per la vicenda della scuola di Adro, costellata di simboli leghisti. Stamattina le parole del ministro degli esteri Franco Frattini, ospite nella videochat di TG1 Web. Tappezzare la scuola dappertutto coi simboli del sole delle Alpi è stato un errore per 2 motivi. Primo, perché tutti sanno che quello è il simbolo di un partito politico, un partito importante ovviamente, ma è un partito politico. Secondo, perché i bambini di 6 anni o di 7 anni, il sole delle Alpi, non lo sanno che cos'è. E allora, se noi vogliamo creare un clima di scontro con i bambini accompagnati nello scuolabus scortato dalla polizia, questo è stato un errore. Il sondaggio di questa mattina riguardava la proposta della CGIL di Treviso di non far entrare nuovi immigrati, privilegiando invece quelli già in Veneto e senza lavoro a causa della crisi. Alla domanda "è giusto dare lavoro a chi è già in Veneto prima che a nuovi immigrati?", il 77% di voi ha risposto di sì, il 23% di no. È stato scarcerato il camionista romeno che a fine agosto aveva travolto e ucciso con il suo tir un uomo di 49 anni. Era successo alla barriera dell'autostrada del Brennero a Vipiteno, dopo una lite fra i due. Secondo alcune testimonianze, l'automobilista si era steso per terra per impedire il passaggio del tir, ma il camionista l'aveva investito. Il tribunale del riesame ha invece accolto la tesi della difesa del romeno, accusato di omicidio volontario. Secondo i suoi legali, non vi sono sufficienti prove per dimostrare che la disgrazia sia stata stata causata dal suo gesto. Nella notte il titolare di un bar a Peschiera del Garda nel Veronese ha trovato il cadavere di un uomo di circa 70 anni nel canale di mezzo. Stamattina a 150 metri di distanza dal primo è stato recuperato anche un secondo corpo, una donna. Entrambi i cadaveri avevano le mani legate dietro la schiena e la testa nascosta in un sacchetto. Era forse la sorella di un collaboratore di giustizia, Teresa Buonocore, la donna uccisa a Napoli, 41 anni, incensurata, risiedeva a Portici, alle porte del capoluogo campano. Lasciamo la cronaca di casa nostra per andare all'estero, le elezioni in Svezia con l'avanzata della destra estrema. La coalizione di centrodestra del primo ministro ha vinto le elezioni. Un suo secondo mandato sarebbe una prima assoluta in un secolo di storia del paese scandinavo, ma l'alleanza guidata da Fredrik Reinfeldt non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Ha ottenuto circa il 49,2%, 172 dei 349 seggi del Parlamento. La vera novità però è l'ingresso in Parlamento per la prima volta dell'estrema destra xenofoba, i Democratici di Svezia del 31enne Jimmy Åkesson, che ottengono 20 seggi. Annunciano di non volersi alleare con lui le due maggiori coalizioni, ma Åkesson dichiara: per il semplice fatto di trovarci in Parlamento li spaventeremo e li costringeremo ad adattarsi. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. A New York nel pomeriggio l'incontro dei paesi ricchi per fare il punto sulla lotta alla povertà. Dimezzare la povertà estrema e la fame, migliorare l'accesso all'istruzione e alla sanità, ridurre la mortalità infantile, le malattie e promuovere la parità dei sessi. 8 obiettivi nel 2000 si diedero i 192 paesi membri dell'ONU al vertice del millennio. Fissarono come traguardo il 2015, ma oggi, a 2/3 del percorso, nonostante alcuni passi in avanti, gli obiettivi sembrano ancora lontani. Il piano, infatti, una storia di promesse mancate. Rispetto a quanto annunciato nel G8 del 2005, ad esempio, sono stati erogati da paesi ricchi 26 miliardi di dollari in meno, mentre l'impegno a destinare agli aiuti allo sviluppo lo 0,7% del PIL è stato rispettato solo da paesi scandinavi, i più latitanti Stati Uniti e Italia. Nel 2009 il nostro paese ha concesso solo lo 0,1% del PIL. Un'assemblea che si apre dunque all'insegna dello scetticismo, quella che deve tracciare un bilancio e rilanciare gli obiettivi entro il 2015. Eppure ci sono almeno due traguardi che, secondo gli esperti, sarebbero realisticamente raggiungibili: dimezzare il numero di persone che vivono con meno di $1.25 al giorno e quelle che non hanno accesso all'acqua potabile. Alessandra Scaipisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Un budget di 200 milioni di euro per la ricerca scientifica e per l'innovazione tecnologica. La Sardegna stanzia quasi il triplo degli investimenti statali di tutta Italia a favore di astrofisica, biomedicina e genetica. In una congiuntura difficile come questa bisogna avere il coraggio di investire, di leggere il presente in prospettiva, ha spiegato Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna. L'ha sentito Ambra Notari. Sono fondi, intanto in prima battuta fondi della Regione. Noi ci siamo posti un obiettivo, che è quello di arrivare a investire in ricerca e sviluppo il 3% del PIL. Oggi è un primato che raggiungono solo gli Stati Uniti d'America. I fondi di cui stiamo parlando vengono dedicati anche alla ricerca di base, ma in grande parte, per la stragrande maggioranza, alla ricerca applicata. Questo significa interventi diretti nel sistema produttivo, nelle nostre imprese, quindi a rafforzare quel tessuto connettivo sul quale si basa la nostra economia. Quindi gli effetti per i sardi saranno tangibili. Per la prima volta in Italia un'operazione chirurgica via internet, cominciata proprio alcuni minuti fa a Milano. La paziente in anestesia locale è sdraiata sul lettino della sala operatoria dell'Istituto Città Studi di Milano. Ha una fibrillazione atriale, un disturbo del ritmo cardiaco che può provocare ictus. Per questo deve essere operata. Nella sala con lei ci sono il chirurgo e il ferrista, che passa al medico gli strumenti. Una normale operazione. E invece, chirurgo e ferrista oggi sono due robot azionati a distanza da una star internazionale della terapia chirurgica delle aritmie cardiache. Il dottor Carlo Pappone è rimasto a Ravenna, al Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Da lì, a 280 km da Milano, sta guidando con il mouse le azioni del suo alter ego tecnologico. Pappone inserirà nel cuore della paziente un catetere, attraverso il quale saranno inviati i radioimpulsi che distruggeranno la parte del tessuto cardiaco responsabile dei battiti anomali. E per la prima volta in Italia, le mani che concretamente eseguiranno l'operazione saranno quelle di un robot. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Medicina all'avanguardia in Italia e da Stoccolma vengono a cercare i nostri giovani medici. Sono stata assunta subito con un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio di circa 100.000 euro l'anno, la macchina aziendale, il computer portatile, il mio ufficio, la mia segretaria. Mi hanno dato pure dei soldi per il trasloco. Eh già, quale giovane laureato, quant'anche in medicina, non sognerebbe un primo impiego così? A Viviana Porcari le cose sono andate bene e per lei è una buona notizia, ma altrettanto potrebbe essere per altri 100 giovani italiani. Si potrebbe andare a Stoccolma, tutti insieme andiamo a Stoccolma. A caccia di camici bianchi è la Svezia, dove i dottori sono troppo pochi. E, dopo l'Inghilterra e la Danimarca, ora è Stoccolma a cercarli da noi, dove invece abbondano. In cambio della svolta radicale di vita, si offrono contratto certo e stipendio fino a 6.000 euro. Viviana, che questa esperienza l'ha già vissuta in Inghilterra, non ha dubbi sul consiglio da dare. Direi assolutamente di sì, c'è la possibilità di confrontarsi con un sistema culturale comunque differente, e poi comunque siamo anche molto apprezzati all'estero. Dove potrei dire con calma, io sto con... Insomma, se il bicchiere è mezzo vuoto, perché questa storia avremmo voluto ambientarla in Italia, le buone notizie restano due: che i nostri medici sono un'eccellenza riconosciuta e che la fortuna c'è per chi ha il coraggio di coglierla. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non verso una sola lacrima sulla morte del cinema. Se è vero che abbiamo avuto anni di ricreazione di qualità, oggi abbiamo finalmente le possibilità di poter creare qualcosa di molto più interessante. Così il regista e artista inglese Peter Greenaway alla 62esima edizione del Prix Italia, che si è aperta ieri a Torino. Sentiamolo al microfono di Andrea Giambartolomei. Cinema now is dead. There are an awful lot of films being made. Il cinema oggi è morto. È un dato che si facciano molti film, ma sono tutti ripetizioni degli stessi paradigmi. La novità è molto difficile da trovare. But I don't have to tell you. Non devo essere io, però, a dirvi che sempre meno gente paga un biglietto per andare al cinema, ma anche sempre meno gente guarda la televisione. Esiste ora un'attività televisiva che ha sempre meno a che vedere con il broadcasting, con le trasmissioni generaliste. But hasn't got an awful lot to do with broadcast television. Siamo nell'era dello schermo, sì, però i giovani lo usano non tanto per vedere programmi, ma come uno strumento interattivo per comunicare tra di loro. Per il moto mondiale siamo così allo sport a trionfo Ducati in Spagna, ma a far discutere sono le sofferenze di Valentino Rossi. Ferito nel fisico e nell'orgoglio, nel giorno in cui il motomondiale ha ricordato la morte del giapponese Tomizawa a Misano e salutato il ritorno al successo, primo Stoner, terzo Hayden, nel mezzo Pedrosa della Ducati che sarà sua, sono le sofferenze di Valentino Rossi a tenere banco. Sul nuovo circuito del GP d'Aragon, Vale è appena sesto, colpa di una Yamaha in crisi d'identità che relega anche il leader del mondiale Lorenzo a un anonimo quarto posto, colpa soprattutto dei guai alla spalla destra del pesarese, di gran lunga più gravi a questo punto del pur terribile incidente del Mugello. Tanto da indurre Rossi a considerare di anticipare l'intervento chirurgico già programmato a fine stagione. Intanto meglio provare a scherzarci su. In fondo anche la vittoria della Ducati può far bene al morale. Grande risultato della moto dell'anno prossimo, sia Stoner che Hayden sono andati fortissimo. Essendo io un pilota Yamaha, fino alla fine dell'anno si devono rimboccare le maniche e devono cercare di lavorare, perché comunque la differenza sta cominciando a diventare un po' preoccupante. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.